Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. E buongiorno a tutti, sono le 9:01 di questo 13 febbraio giovedì, partiamo a nostro Radio Zanardi dando un occhio alla regione perché oggi Bonaccini dovrebbe in teoria, quanto ha dichiarato la stampa, dare l'elenco completo degli assessori. Certo che una cosa è certa, due cose sono certe, una è Filicori, la cultura, l'altra la Schlein, vicepresidente. E allora ieri Lely Schlein della lista coraggiosa, tante preferenze lo sappiamo, primato delle preferenze, ha già chiarito alla stampa la sfida che dovrà affrontare, cioè quella di coniugare la lotta ai cambiamenti climatici con la lotta alle diseguaglianze. A questo punto ascoltiamo le sue parole. Sì, soprattutto si tratterà di mettere a terra alcune delle proposte su cui ci siamo impegnati durante la campagna elettorale insieme a Stefano Bonaccini e che sono entrate a fare parte del programma. Io lo ringrazio molto per questa proposta che mi onora di fare la vicepresidente della nuova giunta regionale e per aver scelto con coraggio di costruire insieme una vera innovazione politica e culturale, cioè riuscire a coniugare la lotta alle diseguaglianze con la transizione ecologica, e quindi mi ha chiesto un impegno diretto sulle politiche sociali determinanti per agire contrastando le diseguaglianze e sul patto per il clima su cui ci siamo impegnati, che andrà costruito come è stato fatto con il patto per il lavoro, diciamo insieme a tutte le parti economiche, sociali, istituzionali, università, ricerca, associazioni. Ecco, quindi è un metodo soprattutto quello che vogliamo costruire per trovare le soluzioni migliori insieme all'emergenza climatica e all'emergenza sociale che colpiscono anche in Emilia-Romagna. E io credo che queste piazze meravigliose e trasversali chiedano anzitutto di ritrovare chiarezza della visione, di ritornare ai valori fondamentali costituzionali ma proiettarli in avanti per capire come agire sul futuro, come migliorare concretamente la vita delle persone su quei temi su cui si stanno mobilitando anche da sole, anche fuori dalla politica organizzata. Senz'altro la politica deve tendere un orecchio e cercare di riallacciare i fili dell'ascolto con quello che si sta muovendo spontaneamente nella società, e credo che sia una necessità anche di quelle piazze ritrovare un dialogo con la politica, la rappresentanza, altrimenti le istanze giuste che portano avanti non riusciranno ad arrivare nei luoghi dove poi si decide. A proposito di movimenti spontanei, c'è questa fiaccolata con la potenza. Sì, io sono qui appunto in qualità di semplice cittadina, amica di chi ha subito purtroppo questo grave attacco antisemita, ma ce ne sono stati tanti in queste settimane, troppi, stelle di David disegnate sui campanelli, lapidi sfregiate, penso a quella di un partigiano a cui ero molto legata come Adelmo Franceschini, ma anche episodi razzisti verso la comunità cinese. Quella del 19 sarà una bella risposta collettiva della comunità bolognese tutta, con comunità religiose, associazioni, reti, ci saremo in punta di piedi mescolandoci nella nostra diversità e convinti che la nostra diversità sia una ricchezza per dare una risposta chiara contro l'odio in ogni sua forma, l'odio che divide le nostre comunità e non fa bene a nessuno. Sì, soprattutto si tratta di parti economiche, sociali, istituzionali, università, ricerca, associazioni. Ecco, quindi è un metodo soprattutto quello che vogliamo costruire per trovare le soluzioni migliori insieme all'emergenza climatica e all'emergenza sociale che colpiscono anche in Emilia-Romagna. E io credo che queste piazze meravigliose e trasversali chiedano anzitutto di ritrovare chiarezza della visione, di ritornare ai valori fondamentali costituzionali ma proiettarli in avanti per capire come agire sul futuro, come migliorare concretamente la vita delle persone su quei temi su cui si stanno mobilitando anche da sole, anche fuori dalla politica organizzata. Senz'altro la politica deve tendere un orecchio e cercare di riallacciare i fili dell'ascolto con quello che si sta muovendo spontaneamente nella società, e credo che sia una necessità anche di quelle piazze ritrovare un dialogo con la politica, la rappresentanza, altrimenti le istanze giuste che portano avanti non riusciranno ad arrivare nei luoghi dove poi si decide. A proposito di movimenti spontanei, c'è questa fiaccolata con la potenza. Sì, io sono qui appunto in qualità di semplice cittadina, amica di chi ha subito purtroppo questo grave attacco antisemita, ma ce ne sono stati tanti in queste settimane, troppi, stelle di David disegnate sui campanelli, lapidi sfregiate, penso a quella di un partigiano a cui ero molto legata come Adelmo Franceschini, ma anche episodi razzisti verso la comunità cinese. Quella del 19 sarà una

inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, giovedì 13 febbraio 2020, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa, come ci sarà anche Giancarlo Castelli con le notizie dalla Russia. Ma noi cominciamo dall'Africa, dove si discute di coronavirus e di misure di prevenzione. Ieri Tewolde Gebremariam, amministratore delegato della Ethiopian Airlines, la più grande compagnia aerea del continente, ha difeso la sua decisione di non interrompere i voli da e per la Cina, come invece hanno fatto altre compagnie di bandiera in Africa. Secondo Gebremariam, a fronte di un contagio che può essere globale, è inutile bloccare i soli voli dalla Cina. Dovremmo chiudere anche le rotte con Singapore, con la Corea, con il Giappone, ha detto. La misura migliore, ha spiegato, è il controllo in aeroporto. Non dovremmo isolare la Cina, non dovremmo emarginare i passeggeri cinesi. Quello che dovremmo fare, ha aggiunto, è controllare i passeggeri secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Ethiopian Airlines collega l'Africa con 5 destinazioni in Cina per un totale di 4.000 passeggeri al giorno. Una posizione diversa viene invece dal governo del Madagascar, che vieta a qualsiasi compagnia aerea che atterra in Madagascar di trasportare passeggeri provenienti dalla Cina o che siano transitati per la Cina nei 14 giorni precedenti l'imbarco. Quest'ultima disposizione, precisa il comunicato dell'aviazione civile del Madagascar, si applica ai passeggeri provenienti da Macao, Hong Kong e Taiwan. Intanto il Centro Africano di Prevenzione e Controllo ha fatto appello ai paesi africani affinché permettano il rientro dei loro cittadini dalla Cina. Il centro, che si occupa di coordinare le risposte sanitarie dei diversi paesi, ha dichiarato di aver dotato degli strumenti necessari per il controllo 15 paesi africani ritenuti a maggior rischio. Kenya e Uganda nei giorni scorsi avevano detto che non avrebbero fatto rientrare i loro espatriati e di qui l'appello. Ma anche il Congo Brazzaville non ha intenzione di riportare a casa i 500 studenti congolesi che si trovano per motivi di studio a Wuhan. Il governo ha comunicato di aver sbloccato 200 milioni di franchi CFA, circa 300.000 euro, di aiuti per loro e di aver comunque aperto un centro di quarantena, non di cura, ha precisato il governo, per casi sospetti di coronavirus. Anche nelle isole Comores sono state prese misure di prevenzione, in particolare isolando in quarantena i viaggiatori provenienti dalla Cina. Ma ci sono proteste per le condizioni in cui vengono tenute le persone che sono ospitate in un alloggio militare a una decina di chilometri dalla capitale Moroni, in condizioni definite di scarsa igiene. In Burkina Faso la ministra della Salute, Léonie Claudine Loguet, ha confermato martedì che non ci sono casi di contagio e che l'unico paziente sospetto è risultato negativo al test del coronavirus effettuato da esperti venuti dall'Istituto Pasteur di Dakar in Senegal. Tuttavia la ministra si è lasciata andare a precauzioni un po' allarmistiche, dicendo di evitare i contatti diretti con chi abbia segni di influenza, e cioè naso che cola, tosse, febbre e aspetto stanco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque ribadito ancora ieri che finora non ci sono stati casi di coronavirus in tutto il continente. Camerun, a pochi giorni dalle elezioni e nell'attesa dei primi risultati che dovrebbero arrivare oggi, il bilancio della consultazione elettorale non è affatto positivo. Al di là dei numeri, l'Unione Africana ha lamentato il basso numero di votanti, Human Rights Watch, con un rapporto uscito ieri, denuncia abusi, violenze, minacce e soprattutto il rapimento di 100 persone da parte dei gruppi separatisti nelle regioni anglofoni. Le forze di sicurezza dello Stato, scrive il rapporto, non hanno sufficientemente protetto i civili dalle minacce poste dai separatisti e piuttosto hanno invece commesso nuovi abusi verso di loro nel corso dello stesso periodo. Il rapporto di Human Rights Watch fa riferimento a quanto avvenuto all'inizio della campagna elettorale e fino al momento del voto. Sul nostro sito troverete il link al rapporto. Marocco, 7 tonnellate di cannabis sono state sequestrate dalla polizia nel sud del paese e 8 persone sono state arrestate con l'accusa di traffico internazionale di droga. Repubblica Democratica del Congo, la lotta contro le milizie ADF, milizie ugandesi, ha causato un disastro umanitario. Lo sostiene la rete della società civile di Benin, nel nord Kivu. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente dell'organizzazione, almeno 200.000 persone sono fuggite dalle loro case nei villaggi che sono stati attaccati dalle milizie. Ma se per alcuni è stato possibile essere ospitati da famiglie e amici nelle città più grandi, come Benin appunto, la maggior parte di loro hanno dovuto accontentarsi di dormire per strada. L'ultima grande fuga di masse è avvenuta lo scorso fine settimana da Magina, un villaggio dove sono circolate voci sull'arrivo delle milizie ADF. Le voci poi si sono rivelate false, assicura il borgomastro, ma il 60% della popolazione è andata via. Fuga comprensibile. La settimana prima c'erano state incursioni in una serie di villaggi vicini, con un totale di 23 corpi, molti decapitati, finora recuperati. Mali, l'offerta del presidente Ibrahim Boubacar Keïta di dialogare con i jihadisti maliani, nello specifico i due capi Iyad Ag Gali e Amadou Koufa, per porre fine alla violenza nel paese, ha sicuramente lasciato il segno. Arrivata improvvisamente nel corso di una intervista lunedì con Radio France Internationale e France 24, non è stata approvata positivamente. Je crois que quel que soit la portée d'un combat, et je sais que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous voulez citer les noms. Mais j'ai devoir aujourd'hui, et mission, à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Questa dunque la posizione del presidente. Tra i membri del Rassemblement pour le Mali, che è il partito di Keïta, si considera l'offerta come semplicemente il proseguimento del dialogo nazionale inclusivo lanciato qualche anno fa. Ma, spiega Baber Gano, segretario del partito, ci sono comunque delle linee rosse che non vanno superate: integrità territoriale, laicità, principi repubblicani. Meno positivo il giudizio negli altri partiti, interrogati sempre da Radio France Internationale su questo tema. Moussa Mara, del partito Yelema, sostiene che da parte delle milizie non c'è una grossa volontà di dialogo e che se anche ci fosse manca un terreno comune. Loro vogliono il califfato e la sharia, dice Moussa. Questo significa buttare via il nostro stato multiconfessionale, la nostra costituzione. Ma soprattutto, contesta Moussa, oggi il problema più grande del Mali non è Iyad Ag Gali e non è Amadou Koufa. Il problema più grande è la presenza delle milizie affiliate allo Stato Islamico e con quelle non c'è alcun dialogo possibile. Trovate il link all'intervista al presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sul nostro sito. E oggi a Kidal, la città simbolo in cui da 6 anni il governo era stato cacciato, dovrebbe arrivare l'esercito del Mali. Non l'esercito così come lo conosciamo, ha spiegato Keïta nell'intervista di cui vi abbiamo parlato, ma un nuovo esercito composto da soldati regolari ma anche da altri elementi provenienti dalle fila dei gruppi armati che hanno chiesto di essere integrati. L'esercito ricostituito, così lo ha definito il presidente. Il miglioramento delle condizioni economiche in Africa, che si otterrà anche grazie alla cooperazione internazionale, non fermerà la migrazione, ma al contrario ne sarà uno stimolo. Questa, assieme a altre questioni, è una delle considerazioni più importanti di uno studio a cura del Nordisk Africa Institutet, ente pubblico svedese di ricerca, pubblicato ieri. Lo studio si preoccupa di sfatare le false affermazioni sulla migrazione, per esempio spiegando che la maggior parte dei migranti africani che entrano in Europa lo fanno legalmente o che la maggior parte dei migranti africani rimane in Africa. O ancora che più è difficile entrare in un paese, più è probabile che il migrante rimanga e che il motore fondamentale della migrazione del lavoro nella Sud-Nord è la disuguaglianza e non la povertà. E passiamo dunque alle notizie dall'Europa. Partiamo dalla Francia, dove l'Assemblea ha adottato ieri in prima lettura un disegno di legge per regolare il lavoro dei giovani YouTuber. La proposta richiama allo sfruttamento dell'immagine dei minori al di sotto dei 16 anni su internet ed è passata all'unanimità, anche se erano presenti solo 69 deputati. Il testo, spiega il suo relatore, vuole colmare un vuoto giuridico di fronte a una situazione nuova che combina in sé una forma di imprenditoria e una di espressione artistica. A livello pratico, cosa succederà? Gli youtuber saranno soggetti alla legge che regolamenta il lavoro di minori nello spettacolo, dovranno essere autorizzati, il tempo di ripresa dovrà rispettare dei limiti che verranno successivamente fissati e la maggior parte degli introiti percepiti saranno bloccati presso la cassa depositi fino all'accompimento della maggiore età. Il Parlamento europeo ha ratificato ieri il contestato accordo di libero scambio con il Vietnam. L'accordo, approvato con 401 voti a favore, 192 contrari e 40 astensioni, era stato criticato per il suo impatto ecologico e per la situazione dei diritti umani in Vietnam. Lunedì una settantina di organizzazioni avevano inviato una lettera al Parlamento invitando a non votare l'accordo. Spagna, rottura dentro Podemos, dove la coordinatrice di Podemos Andalusia, nonché referente della corrente detta anticapitalista Teresa Rodriguez, ha lasciato il partito di Pablo Iglesias per le divergenze politiche emerse con l'ingresso al governo della formazione. Una rottura che è comunque un atto politico anche nella sua forma. Con un video pubblicato ieri, Rodriguez e Iglesias spiegano le ragioni della separazione e i modi in cui questa avviene. Credo che la politica, come nella vita, hai forma di separarsi che sono aggressiva, che sono violenta, che sono patriarcale, in forma civilizzata, rispettosa, empática, incluso cariñosa, que son las más sanas y que también se pueden construir y son posibles en política. Ese es el sentido de esta comunicación que hacemos hoy. Rodríguez resterà comunque nel partito fino al congresso andaluso che si terrà a maggio. Germania, sono previste per domani e per sabato a Monaco le proteste in occasione della conferenza sulla sicurezza, appuntamento annuale che si svolge dal 1963 e che dal 2001 attira la contestazione dei movimenti sociali. Stavolta di mobilitazioni ce ne saranno tre: antifascista, antirazzista e ambientalista. Con una lettera pubblicata in rete, il movimento che coordina le proteste spiega le sue ragioni. Quello di cui si discute a Monaco, dicono, non riguarda la sicurezza delle persone, ma la sicurezza del modello economico a cui fanno riferimento i partecipanti. La difesa è degli interessi, sostengono, dell'accesso ai mercati e alle risorse. Alla conferenza, oltre alle maggiori industrie del settore, parteciperanno ministri, capi di governo e presidenti. Per la Germania ci sarà la ministra della difesa Annegrete Kramp-Karrenbauer e poi ci sarà il presidente francese Macron, i ministri degli esteri della Turchia e dell'India, Mike Pompeo per gli Stati Uniti. E restiamo in Germania perché domani, a 75 anni dalla liberazione di Auschwitz, il Bundestag dovrebbe, salvo voti contrari dell'ultimo momento, riconoscere come vittime del nazismo anche tutti i cosiddetti triangoli neri o verdi, e cioè prigionieri incarcerati perché considerati antisociali o criminali. Tra loro ci sono senza tetto, mendicanti, alcolizzati, ma anche bambini solo perché figli di alcolizzati. Portati nei campi di concentramento, hanno subito la stessa sorte di tutti gli internati, ma per loro non c'è mai stato riconoscimento pubblico come vittime. La campagna per il loro riconoscimento era iniziata 2 anni fa e aveva raccolto 21.000 firme. E ora lascio la parola a Giancarlo Castelli con le notizie che arrivano dalla Russia. Un inusuale intervento dell'assistenza sociale di Mosca ha beneficiato un cittadino tagico con tutta la sua famiglia, compresi gli 11 figli, l'ultimo dei quali nato appena poche settimane fa. Il servizio russo di welfare, che notoriamente non spicca per particolare solerzia, nel caso di Abdumannon Sattorov, cittadino tagico in difficoltà economiche e residente nell'Interland di Mosca, nella zona di Ariekovo-Zuyeskoye, sposato e padre di 11 bambini, ha mostrato invece un'efficienza quasi esemplare. Forse memori del discorso di Putin sulle riforme costituzionali e il suo appello al rafforzamento della famiglia attraverso aiuti economici, il signor Sattorov, in Russia col permesso di soggiorno temporaneo, ha ricevuto un riguardo tutto speciale da parte dell'amministrazione comunale per l'ottenimento della carta di permanenza sul territorio russo in via illimitata e in tempi brevissimi. Non solo, ha ottenuto un aiuto per la ricerca di un alloggio con annesso terreno, un passeggino e un kit per neonato alla dimissione della madre dall'ospedale, servizi essenziali gratuiti, soldi per l'alimentazione dei bambini e persino il contributo una tantum di 180.000 rubli, circa 2.500 euro. Ad Abdumannon e alla sua famiglia è stata anche promessa la concessione della cittadinanza russa. Bene, questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di Radio Bullets di oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Io vi lascio con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Una buona giornata e appuntamento a domani. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:29 minuti questo 13 febbraio, giovedì. Buongiorno a voi dell'ascolto da nostra rassegna stampa, a seguire le Radio Bullet. Naturalmente i temi di oggi sono cappeggiati dal caso Gregoretti, che riempie i titoli di questa giornata. Il Messaggero, per esempio, da Roma: Salvini, i rischi del processo. Sì, perché il Senato ha detto sì a Salvini a processo. Mentre abbiamo Salvini a processo, cosa rischia, ci precisa il Gazzettino. Mentre scendiamo al secolo XIX, siamo in Liguria: Salvini sarà processato, ma il giudizio vero arriverà dal popolo, dice Salvini, che dirà sairà, sairà, come i giustizialisti francesi. Comunque andiamo avanti, avanti, avanti, e quindi siamo al Manifesto e La Nave Va. Qui invece è un Salvini un po' mesto. Salvini verrà processato per il mancato sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. Con 152 voti contro 76, il Senato dice sì all'autorizzazione a procedere per l'ex ministro dell'Interno. 5 senatori della maggioranza si schierano con il centrodestra. Questo è quello che racconta il Manifesto. E il Corriere della Sera: processo per Salvini, vince il sì. L'ex ministro dice rifarei tutto. Prenda nota il magistrato. Ed è che si chiama reiterazione del reato. Sulla prescrizione i renziani votano con l'opposizione. L'altro tema, appunto, è Renzi e le tentazioni dei due Matteo, così dice poi La Stampa, ma di questo vedremo. E c'è Salvini che si sente ormai Giovanna d'Arco sulla pira: l'ex ministro, non mi azzopperanno, l'ira per le risate quando parla dei figli, perché lui, se non ha la Madonna in primo piano, povera Madonna, ci mette i figli, i poveri figli. Ma dice Giovanni Bianconi: il PM potrebbe chiedere di assolverlo. Beh, certo, come tutti i processi di questo mondo. Adesso questa mi sai che è trovata. La procura ha già negato l'esistenza del reato, la decisione finale arriva dopo udienza davanti al GUP. Questo è il Corriere della Sera. Grazie Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e continuiamo su questa onda. Antonella Coppari, sulle pagine del Resto del Carlino, inizia così il suo articolo: un'anatra zoppa, come lo definirebbero negli state, ora che il Senato ha dato l'autorizzazione per il caso Gregoretti contro Salvini. Ai piani più alti della Lega serpeggia una preoccupazione che riguarda il destino del loro leader, sul quale grava il rischio di una condanna giudiziaria che potrebbe menomarlo politicamente. E c'è una fotonotizia dove Salvini è paonazzo in faccia, sta sbraitando nell'interpellanza parlamentare. Speriamo, lo dico io, che non abbia dei problemi di ictus. E ancora altre rivelazioni. Sono, come diceva Alfredo, 5 senatori della maggioranza che hanno votato contro, tra cui c'è anche Pier Ferdi Casini. Non deve contare la nostra opinione politica, dice Salvini, è stato sconfitto in Parlamento, le sue politiche vanno avversate nel paese, ma senza secondare facili scorciatoie giudiziarie. E sempre sul Carlino c'è una fotostoria notizia sui guai giudiziari, a partire dalle monitine di Craxi il 30 aprile del 93, sempre marzo del 93, il cambio in aula del leghista Luca Leoni Orsenigo, per non parlare di Berlusconi, la magistratura con Linda Boccassini, e poi c'erano i coniugi Mastella nel 2017, e ultimamente è arrivata la fondazione Open di Renzi. Repubblica ha questi articoli che riguardano Salvini. Gregoretti sia al processo, Salvini dice torno al governo e lo rifaccio, e appunto lanciamo un messaggio ai magistrati per la reiterazione del reato. E poi c'è un bel editoriale di Francesco Merlo che insomma riempie tre pagine e fa un po' il personaggio, disegna il personaggio di Salvini. Si sono risvegliati gli avvocati, i vecchi retori contro la giustizia iniqua che vuole processare la politica, è tornato il vecchio sapore degli Schifani e dei La Russa. Quello che è interessante è domande e risposte in fondo alla pagina, dove si dice quali saranno i tempi in cui verrà presa la decisione appunto di condanna o di assoluzione di Salvini. Dice il presidente del GIP di Catania, Nunzio San Pietro, deciderà entro l'estate. In caso di rinvio a giudizio, il processo si svolgerà davanti a una sezione del tribunale ordinario. Che pena rischia per il sequestro di persona aggravato Salvini e abuso di poteri? La pena prevista è fino a 15 anni. Sì, tu citavi Casini, definito il garantista del giornale, che ci ricorda la ruota gira, cioè vuol dire domani a te, domani oggi a me. Questo è un po', ma non, chiaramente non si riferiva a, che so, a qualche zingaro preso dai vigili, da qualche migrante irregolare, no, si riferiva alla casta del Parlamento, quindi io. Cane non mangia cane, dice il garantista Casini. Ma detto questo, uno si domanda com'è che questo stolido razzismo salviniano, che dice che ha difeso i confini della patria, da chi? Dalla Marina Militare Italiana? Qua c'era un golpe in corso, che l'arma della Marina si era ribellata contro il governo, contro lo Stato Democratico Italiano? No, c'era la nave della Marina che voleva entrare in porto e gliel'ha impedito per naturalmente giocare sulla pelle dei migranti a bordo di quella nave. Ma allora com'è che questo funziona, la modernità col razzismo? Ce lo chiede Bruno Montesano, che si dà questa risposta in una pagina del Manifesto, nella community, quella della discussione politica e culturale, e si racconta del solido nesso tra razzismo ed economia. Quindi non è un fantasma del passato il razzismo, un colpo di coda di tempi anacronistici, perché secondo il ragionamento di Bruno Montesano dal Manifesto, molti studiosi hanno messo in rilievo che il razzismo moderno si sia fermato a partire dall'espansione coloniale che sorresse l'emersione del capitalismo europeo. Quindi ieri come oggi i migranti servono l'economia del welfare, ma non devono esistere nella società. La morte sociale di alcuni nel Mediterraneo e in Libia fisica è il loro destino. Quindi la modernità tremenda del razzismo è che va ancora per questo meno sotto gamba. E infatti, se andiamo nella pagina dell'extraterrestre, l'inserto del Manifesto sull'ambiente che più tardi prenderemo in esame più da vicino, però subito analizziamo questo intervento di Clara Arche e Manuela Moncada nei panni dei braccianti sfruttati. Le lotte con la comunità indiana, i travestimenti per lavorare nei campi come un immigrato, le agromafie raccontate da vicino, un incontro con il sociologo Marco Omissolo, autore di Sotto Padrone. E lui dice: per dare una scossa fondamentale, associare il tema dei diritti dei lavoratori e i diritti umani con quelli ambientali. Questo è il quadro che arriva. Ma su Salvini sentiamo l'antica saggezza di Gianni Rodari, famoso per le sue filastrocche, parlava di bambini ma per farsi capire dai grandi, e parla del punto a capo. Cioè, parla di virgole, punto virgola, punto a capo, ma chissà perché la filastrocca si chiama il dittatore. Sentiamo. Un punto, piccoletto, superbioso, iracondo. Dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono. Ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta. E non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. E torniamo dunque in studio con la saggezza recitata dallo stesso Rodari e andiamo allora alla pagina della politica italiana, che naturalmente vive questo braccio di ferro eterno continuato tra Italia Viva di Renzi e il resto della sua maggioranza, pur con le sue divisioni interne anche nel resto della maggioranza. Però cominciamo dallo spazzacorrotti, questo terribile neologismo pubblicitario utilizzato per una legge brutta che vede, è stata in qualche modo demolita dalla Consulta. Infatti leggo dal Corriere: spazzacorrotti, paletti della Consulta, i giudici costituzionali no all'applicazione retroattiva, sulla decisione nuove tensioni in maggioranza. Botta e risposta: Renzi non è che l'inizio, perché Renzi poi la associa alla lotta contro la prescrizione, quella che ha tutto un altro sapore. Bonafede: lasciamo la Corte fuori dalle strumentalizzazioni. Allora dice il Travaglio, nel giorno del Fatto Quotidiano, che apre con il nuovo salvaladri, e quindi ce l'ha con la Consulta oggi. La Consulta evita di applicare la spazzacorrotti sul carcere vero anche per i reati precedenti, escono i condannati per il mondo di mezzo e Formigoni resta fuori per sempre. Questo è Marco Travaglio, che naturalmente che fa la classica strumentalizzazione, estremizzazione, quando serve per far approvare, condividere un ragionamento a prescindere. E infatti titola: e ora tutti fuori. In sintonia con questo clima di restaurazione dal congresso di Vienna e alla Matriciana, la Consulta decide di salvare dalla galera i corrotti eccellenti tipo Formigoni, che una norma sacrosanta dello spazzacorrotti aveva escluso dalle pene alternative al carcere. Non so perché dovrei godere il fatto che Formigoni soffra in carcere, abbia le pene alternative, ma questa è la differenza tra garantismo e giustizialismo, voglia di forca. Mentre un concetto molto diverso è quello che riguarda la prescrizione, perché la prescrizione infinita fino alla Cassazione serve solo per chi ha le spalle larghe e può avere un collegio di difesa che la rimanda sine die, quindi esce dalla porta di servizio dalle beghe giudiziarie, scusate. Quindi abbiamo per il processo a Salvini 152 sì, questo è la Gregoretti, mentre per quanto riguarda la pagina della prescrizione ancora dal Corriere: stop al lodo Annibali, Renzi vota ancora con l'opposizione. Quindi sta tra il ricatto con segnali alla maggioranza e anche un qualche problema di tipo familiare. Renzi vota ancora con l'opposizione, la deputata insultata sul web, Conte indegno, il leader Italia Viva al guardasigilli, 2 mesi per le modifiche. Quindi riscritto il testo dell'intesa, il PD spiazzato da Bonafede, così per noi è indigeribile, oggi Consiglio dei Ministri l'accordo potrebbe slittare, quindi lo sgambetto di Renzi potrebbe anche funzionare. Nel frattempo il giornale su questo tema, naturalmente vista da destra, sperando che questa cosa porti al tramonto il governo Conte 2 per arrivare alle elezioni, loro si sentono avvantaggiati. Governo in fuga da Palazzo Madama, i senatori giallorossi consegnano Salvini, ma nei giudici da una parte e dall'altra abbiamo il tema della prescrizione descritto dal Corriere con l'articolo di Laura Cesaretti: prescrizione, pace già finita, PD e 5 Stelle distanti anni luce. Renzi, capo sul lodo Annibali, perde il primo round, ma la riforma del processo riapre lo scontro nell'interno dei giallorossi. Sì, sulle pagine della Stampa c'è un'analisi abbastanza approfondita di Flavia Perina su questo problema di Salvini, e dice: mai un'inchiesta ha riguardato atti politici compiuti nell'esercizio delle funzioni del governo, Salvini sarà l'eroe perseguitato e l'infinita campagna elettorale porterà il leghista agli opposti dell'anatema di Moro, non ci faremo processare nelle piazze, te lo ricordi Alfredo? E la macchina mediatica di Salvini, conclude Flavia Perina, sarà capace di permeare l'opinione pubblica. E sempre sulle pagine della Stampa, il giornale di Torino, c'è appunto la sentenza della Consulta che viene bocciata la retroattività sul decreto spazzacorrotti. Appunto, c'è sulla pagina di Repubblica la foto degli arresti domiciliari di Roberto Formigoni, ex governatore lombardo, che non dovrà tornare in carcere. Italia Viva vota con la destra, solidarietà bipartisan ad Annibali e alla deputata Annibali attaccata in rete. C'è un corsivo appunto su Repubblica di Lavinia Rivara che ci parla di questo: Eter contro Annibali, la solidarietà non basta, dice Lucia Annibali. Non è certo che la prima volta che viene colpita da insulti, offese, minacce in quella fabbrica di odio che sono i social media. Li riceveva prima, come racconta il sito di Repubblica, e ne riceve anche di più in questi giorni dopo aver presentato l'ormai famoso lodo che sospende per un anno la legge Bonafede sulla prescrizione, un atto che le ha dato nuova visibilità, essendo il tema un tormentone politico del momento. Si tratta di decine di messaggi che lei normalmente cancella, spiega, come probabilmente è costretta a fare ogni persona che gode di una certa notorietà. E allora andiamo ancora a Firenze. Si diceva che c'è nella prescrizione una battaglia politica, chiaramente di schieramento, per creare un grande centro che in Italia non si riesce a creare da tempo, dal tempo della Brenna Bianca, ma c'è anche qualche problema più personale, perché leggo dal manifesto con Riccardo Chiari: la procura chiede di processare i genitori di Renzi, e comincia a Casini, la ruota gira, vero? E dalla pagina invece vengo all'altro spunto che riguarda il Fatto Quotidiano, che ci parla appunto dello spostamento visibilmente verso destra di Italia Viva. Sicurezza in Toscana, per esempio, renziani come la Lega, mettiamo i vigilanti privati per la notte. Quindi si cerca di erodere un consenso a Salvini su quel versante. Italia Viva presenta una legge fotocopia di quella in vigore a Cascina, il PD esce dall'aula. L'ira degli alleati, la norma viene applaudita dalle opposizioni, cioè ormai è un quadretto che parla da sé. Le idee mediano e impongono il dietro fronte. Questo è il racconto che ci dà il Fatto Quotidiano. Vengo invece ai 5 Stelle, perché sappiamo che vanno verso gli Stati Generali, che sempre più assomiglia ad un congresso, con tutti che prendono posizione. Parliamo di Nicola Morra, rappresentante di mafia, sul futuro del movimento. Non si può aspettare il referendum del 29 marzo, apriamoci all'esterno. E chi è all'esterno? E fare subito gli Stati Generali 5 Stelle, con le sardine si può parlare. Accordi alle regionali, ci sono principi su cui si può dialogare con tanti, purché ci sia un ferro rispetto delle regole. Questo è il quadro che dà Morra nel dibattito. Aspettiamoci le repliche dei Dioscuri, così li chiama il Corriere, di Ibba e Di Maio. Ma le sardine sono un momento abbastanza complicato, perché devo uscire dalla particolarità di Bologna, di Emilia Romagna e le sue elezioni, per cercare forse, chi lo sa, una dimensione nazionale più complessa. Allora, tra slogan per il Sud e Altolà e 5 Stelle, dice Monica Guerzoni dal Corriere nel Dopo Emilia, così le sardine cercano un'identità. Le telefonate tra Sartori e il Premier, ma la parte più difficile è sulle regionali. E sulle invece la regionale già fatta, vengo al Corriere di Bologna, perché leggo con l'articolo di Mauro Giordano: le sardine avvertono Bonaccini, niente strappi con l'autonomia, quindi niente ricorrere alla Lega sul terreno dell'autonomia, della differenziazione, eccetera eccetera. Ieri a Roma l'incontro con del movimento col ministro Boccia, e c'è anche un pandan in via San Mammolo delle sardine, guarda un po', ce lo racconta il Carino di Bologna: sardine in parrocchia e i residenti si infuriano. Immagino quali residenti. Comunque, in San Mammolo, barricata contro l'associazione che produce pesciolini di stoffa in locali della chiesa, si fa attività politica, dice, è scandaloso, verso un comitato. I malumori sono finiti in una chat e presto è prevista anche un'assemblea. Sì, Alfredo, hai parlato appunto della giunta regionale dell'Emilia Romagna, e Bologna nelle pagine locali della Repubblica c'è la squadra, è già stata pubblicata la squadra, anche se non è ancora stata definita e ufficializzata. Si parte da Emily Schlein, welfare e clima, Felicori, il manager culturale alla cultura, Donini, assessore ai trasporti, Colla, il vice di Landini, sarà al lavoro, Corsini, responsabile del turismo, Calvano, in squadra segretario regionale del PD Ferrarese, ancora la Priolo come trasporti, e Salomoni sulla informatica. Ma sulle notizie generali leggiamo che l'Europa si mobilita per Patrick Duchy, è un articolo di Ilaria Venturi, un appello alla mobilitazione per lo studente incarcerato al Cairo. Il rettore dell'Ateneo di Bologna, Francesco Ubertini, non ha dubbi, l'Europa si muova. Patrick Duchy è un nostro studente, ma anche uno studente Erasmus, mobilitiamoci tutti. E nelle pagine interne, sempre di Repubblica, l'ONG, la piazza, i post su Regeni e gli 007 di Al-Sisi, dice che lo avevano già nel mirino. Questa è un reportage di Francesca Cafferri, per l'appunto. Al Cairo il pressing anche di ambasciate di altri paesi per liberare il giovane attivista. E c'è un'intervista alla famiglia Regeni che dice: conosciamo la ferocia appunto degli aguzzini egiziani. E il rettore di Bologna fa un'intervista appunto a Ilaria Venturi, e il presidente del Parlamento europeo Sassoli ha chiesto il rilascio. È un passo importante, ma facciamo anche un appello a tutte le università. È importante la preoccupazione dell'Unione Europea, perché evidentemente rende difficile per l'Egitto mettere la polvere e le torture sotto al tappeto, ma è chiaro che la mobilitazione deve continuare. Allora, sui diritti violati del Carlino Bologna, il rettore Ubertini, che già tu citavi, un grande corteo per Patrick, mobiliteremo tutte le università europee e non solo, Merola, massima partecipazione. E il Corriere conferma: la Zacchi era sotto sorveglianza da marzo, un dossier su di lui per aver partecipato a proteste, si è gradito anche il test sulle differenze sessuali in Egitto, ma sembra dalle notizie che si hanno che Zacchi è nelle mani dei suoi aguzzini, perché vogliono estogliere una confessione contro Regeni per insabbiare o giustificare anche l'altro scandalo internazionale. La strettoia del negoziato è così descritta da Francesco Battistini, sempre dal Corriere: l'ipotesi di chiamare altri paesi a mediare per liberare Patrick, il piano dell'Unione Europea coinvolge Olanda e Canada, esperte sui diritti. Questo è il tema. Nel frattempo, proprio di diritti, c'è anche Tripoli e la Libia. Blitz il ministro Tripoli con l'offerta di 20 milioni di euro. Di Maio gioca la carta dei fondi per la cooperazione per sbloccare la crisi libica, cioè dagli soldi per le armi, perché lì si sta combattendo, quindi vuoi che vadano quei soldi lì. E quindi armi in cambio di diritti sia in Libia ma anche in Egitto. Allora, tornando alla vicenda di Zaki, sull'Egitto abbiamo il tema armi e Egitto. Ne sentiamo cosa ne dice Giorgio Beretta della rete Disarmo Italiana. Sono andate avanti durante tutti gli anni 2000, ma in particolare sono cresciuti fortemente, nonostante il caso Regeni, l'omicidio di Giulio Regeni, proprio nel 2018, cioè nell'ultimo anno. C'è stata un'autorizzazione per le esportazioni di armamenti verso l'Egitto per quasi 70 milioni di euro, che tutto sommato non è una cifra enorme, ma sicuramente, ed è questo l'intento appunto del governo italiano, serve per mantenere aperto un contatto e per mantenere aperto appunto una serie di rapporti che poi possono servire per incrementare, per appunto sviluppare nuovi contratti. Non è un caso che proprio in questi giorni si stia parlando di una serie di nuove forniture di armamenti da parte dell'Italia all'Egitto per valori davvero molto molto consistenti. In qualche caso si arriva addirittura a parlare di qualcosa come 7 miliardi, se non 9 miliardi di euro di contratti, che vorrebbe dire sono navi sostanzialmente di pattugliamento, navi militari, le fregate FREM, ma anche aerei da addestramento, ma che possono essere armabili come gli aermacchi M346, e tutta una serie appunto di armamentario ampio che riguarda soprattutto, e questo è il punto, riguardano le due principali aziende a controllo statale, e cioè Leonardo, ex Finmeccanica, e Fincantieri. E proprio questa è la questione, cioè si cerca di tenere aperto anche con piccole, diciamo, commesse durante tutti gli anni, anche quando appunto, nonostante all'indomani dell'omicidio di Giulio Regeni, si cerca di tenere aperto questo canale, proprio per poi arrivare a fornire questi sistemi di armamento molto più pesanti e ovviamente molto più costosi, ecco. Tra l'altro non si tratta solo di forniture militari, ma si fanno affari anche sulle armi leggere con l'Egitto. Sì, in questo caso però sono sempre armi leggere, in gran parte fornite, se non alle forze armate, alle forze di sicurezza. L'anno prima praticamente dell'omicidio di Giulio, dobbiamo ricordare che l'Italia ha fornito 30.000 pistole e poi dei fucili ARX appunto alle forze di sicurezza dell'Egitto. Non è una commessa di poco conto se uno pensa che in quel momento eravamo all'indomani del colpo di Stato di Al-Sisi, da parte dell'Unione Europea c'era stata, e l'aveva voluta fortemente l'ex ministro degli esteri Emma Bonino, una sospensione dell'invio di armi. Quando appunto è cambiato il governo e la Bonino non c'era più al governo, il primo atto che è stato fatto è stato quello di inviare queste 30.000 pistole alle forze di sicurezza dell'Egitto. Io dico spesso che chi ha preso in consegna Giulio Regeni è molto probabile che avesse nella fondina una pistola italiana. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Veniamo allora, come di consueto, il giovedì al tema ambientale. E cominciamo da questa storia che arriva dalla Val di Susa, da Chiomonte. Sapete la vicenda TAV Notav. Salviamo la farfalla Notav. Corridoi ecologici lungo il cantiere. Val di Susa, colonie di polissena a rischio, espropri i terreni perché possono volare. La farfalla che rischia di fermare la TAV verrà salvata, tutto il resto no. Però non ci sarà un corridoio per popolazione. Comunque, lasciamo perdere. A farlo sarà un corridoio ecologico che permetterà alla rara Zenintia polissena, una specie protetta a livello europeo, di spostarsi dall'area del cantiere di Chiomonte in Val di Susa, dove la sua sopravvivenza sarebbe stata messa seriamente a rischio dall'ampliamento del sito in vista dell'avvio dei lavori in cavo del tunnel. Questo è il tema. Altro sempre sul problema dell'Italia e del suo ambiente, vengo con Vittorio Emiliani, il Fatto Quotidiano, alla Maremma. Meno olio e vino, Capalbio muore nel cemento. Quindi vediamo qual è la riconversione industriale, no? Si toglie l'agricoltura per fare del cemento. Dunque, il paesaggio della Maremma collinare tra boschi, oliveti e vigneti di nuovo in pericolo, lo denunciano WWF, Legambiente, Italia Nostra, Carte in Regola, Green Italia, Coordinamento Produttori Biologici, in un fitto argomentato documento contro l'attuale giunta di Capalbio, Grossetano, guidata da alcuni mesi dal geometra Settimio Bianciardi. Beh, un geometra è uno che tira le righe, poco interessato al scusa della categoria geometri, ovviamente. Un ex PC di peso, protagonista delle politiche edilizie del centro maremmano, quando si parlò di un partito dei geometri, per l'appunto. A partire dal mega parcheggio sotto le mura largamente fallito come impresa economica, si riempie giusto il mese di agosto e il weekend estivi, dietro il quale si aggira lo sospetto di una robustissima piattaforma per qualcos'altro, magari per una bella serie di villette e schiera con tanto di garage incorporato. Questo è il cemento che avanza e l'olio e il vino che si ritirano. È il Fatto Quotidiano, quando parla di ambiente e di ecologia va proprio a pizzicare, guarda caso, Capalbio. E ritornando alla farfalla polissena, bellissima per colori, citata sulla Val di Susa, c'è un articolo che il Sole 24 Ore riporta, che riprende il tema e dice: metà del milione di specie di insetti, sia animali e anche vegetali, sono in via di estinzione. La metà di questi appunto sono insetti, la cui sparizione sarebbe devastante per l'intera umanità. A lanciare l'allarme uno studio guidato da Pedro Cardoso, biologo dell'Università di Helsinki. Quella che si delinea è come un'estinzione di massa. L'ultima è avvenuta 66 milioni di anni fa, con la scomparsa dei dinosauri, e mette a rischio, con la sparizione di 500.000 specie di insetti cruciali per l'impollinazione, una produzione globale del valore di 235 miliardi di dollari l'anno. E sempre per parlare di ambiente, abbiamo le pagine di Repubblica, che oggi ha l'inserto sulla scienza e appunto anche sull'ambiente. C'è una spedizione italiana in Antartide con la nave Laura Bassi, che ha raggiunto il punto più estremo, più a sud della Terra, per scopi scientifici, ma anche perché in questo momento l'Antartide sta avendo le temperature più alte di sempre, 18 gradi la media di questo ultimo mese, i ghiacci si stanno sciogliendo in modo irreparabile. E poi abbiamo un articolo di Marco Tedesco: le ondate di caldo e le microplastiche mettono a rischio la vita degli oceani e i nostri mari sono anche in pericolo. E il numero, ad esempio, di microplastiche è stato calcolato in modo statistico nei nostri mari è pari a 500 volte il numero delle stelle della Via Lattea. I dati rivelano cambiamenti del livello del mare che variano in tutto il mondo e la tendenza generale è in forte aumento. E oltre il 90% del calore generato dal global warming viene assorbito dagli oceani, per cui questa cosa è abbastanza importante. E c'è la solita buona notizia, sempre sulle pagine di Repubblica. Sì, ci sono animali che sembravano destinati alla sparizione e all'estinzione e invece ritornano, dal dingo alle lumache giganti al condor della California, e anche il rinoceronte bianco, che stava per estinguersi, ne rimanevano solo un paio di esemplari, si sta riproducendo di nuovo. E c'è un articolo interessante che riguarda le donne, il gender eco gap quando la sostenibilità è donna. Ce lo dice Luca Fraioli, che è un giornalista, divulgatore scientifico laureato in fisica, che dice: c'è una differenza di genere nelle emergenze ambientali. I media anglosassoni l'hanno ribattezzata gender eco gap e suona più o meno così. Nella testa degli esperti di marketing si è fatta strada l'idea che la sostenibilità è una questione che riguarda soprattutto le donne. Solo loro, infatti, che fanno la spesa e dunque rappresentano il target ideale di campagna green per i biscotti senza olio di palma, ortaggi a chilometro zero, saponi biodegradabili e non solo. La cura e l'accudimento sono da sempre una prerogativa femminile, dunque perché non delegare alle donne anche la guarigione della terra? Infine, i volti della protesta contro le politiche dissennate hanno riempito di plastica gli oceani e di CO2 l'atmosfera, sono quelli di giovani e determinatissime donne. E tra l'altro Greta Thunberg, la ricordiamo, e anche Alexandra Ocasio-Cortez con il suo Green New Deal americano. Ed è una ragazza ritratta da Manifesto a terra, esamine con una mascherina al volto. Ma non è il coronavirus che tutti si preoccupa, è questa banalità che ricordiamo, i conti dello smog, 4 milioni e mezzo di morti all'anno, il 3% del prodotto interno lordo mondiale. Ma a questo siamo abituati. Ma certo. Cioè, non... Il rapporto aria tossica al costo dei combustibili fossili di Greenpeace calcola il prezzo dell'inquinamento da polveri sottili sul pianeta. 8 miliardi di dollari al giorno, ovvero 2.900 miliardi di dollari all'anno, l'equivalente del 3% e 3 del PIL mondiale, e il costo esterno globale dell'inquinamento. 56.000 morti premature e 61 miliardi di dollari è il costo per l'inquinamento atmosferico da combustibili fossili stimato in Italia. Ma nonostante queste cifre siano a dir poco apocalittiche, qui non è un catastrofismo futuro, è un catastrofismo presente. Leggiamo: UE, l'Unione Europea tutto gas, l'Europarlamento approva in 32 nuovi progetti, dal TAP al fracking, Green New Deal in salita. Questa salita, come dire, è modo di dirlo gentile. E allora abbiamo parlato di mascherine, persone che esamine, allora andiamo all'extraterrestre, che oggi guarda La notte del pipistrello. Non è una maratona su Dracula, sono gli autori del momento, sotto accusa, sono gli untori del momento, sotto accusa per la trasmissione del coronavirus dagli animali all'uomo. Ma i pipistrelli, unici mammiferi in grado di volare, amanti della notte, sono vittime loro stesse dell'attività dell'uomo. Importanti insetticidi naturali oggi sono a rischio estinzione. L'epidemia è il tempo della crisi climatica che modifica gli habitat e spinge gli insetti portatori di virus a migrare altrove. E si ricorda appunto come il pipistrello è un ottimo contromisura sulle zanzare, per esempio. Comunque, questo è, sono ritenuti originari responsabili del contagio umano dal coronavirus, ma i pipistrelli sono anche importanti insetticidi naturali, vittime proprio dell'uomo. E allora sul coronavirus impariamo stamattina, per esempio, da un flash agenzia internazionale, che anche una città del Vietnam, 10.000 persone va in quarantena. Siamo a Son Loi, città famosissima anche per delle bellissime vestigie della civiltà khmer distrutte ai bombardamenti nordamericani, quindi adesso c'è anche questa quarantena. E andiamo invece al Corriere della Sera con Margherita De Bac: virus, l'epidemia adesso rallenta, dimessi turisti cinesi a Roma, il numero di casi in Cina chiaramente si stabilizza, anche perché in Italia non c'è nessuna epidemia, grazie a Dio, ancora controlli negli aeroporti e il Dalai Lama si auto-isola. Questo vabbè, mi sembra cosa meno rilevante. Quindi poi abbiamo una serie di articoli così abbastanza di folklore che saltiamo a piedi pari, e invece veniamo alle modificazioni anche di grandi eventi. Si parla anche di sospendere le Olimpiadi di Tokyo di quest'estate, perché appunto le Olimpiadi, dove non possono circolare neanche gli atleti, che le Olimpiadi sono evidentemente, e non si può fare i 100 metri piani con la mascherina, questo per dire, c'è una difficoltà di respirazione. Allora il caso comunque, Barcellona cancella lo show, niente Mobile World Congress, e Milano perde 30.000 turisti, un danno da 500 milioni, Lombardia soffrono le file di moda, ottica e design. Questo è comunque l'epidemia frena, l'OMS scettica, non sappiamo quando finirà. Dice il manifesto, il picco deve ancora arrivare, quindi stiamo ancora brancolando nel buio in buona parte su anche la descrizione di questo fenomeno. La flessione dei contagi forse legata solo a un trucco dei conteggi, anche perché è chiaro che la Cina fa i conti enormemente con un problema economico, quindi la tentazione di minimizzare il danno è forte. Oggi rimessi 20 cinesi dalla Spallanzani. Nel frattempo a Prato, nel cuore della Toscana cinese, strade deserte e paura di perdere il lavoro, una preoccupazione diffusa, vogliamo sapere se ci sono i giusti controlli, dicono le comunità cinesi di Prato. Nel frattempo a Bologna, qui entriamo alla psicosi, il bimbo cinese a scuola scatta la psicosi, il caso dei Carducci deve ancora arrivare, i genitori preoccupati protestano. Il bimbo arrivato in Italia dalla Cina a metà gennaio non ha ancora varcato il portone della scuola e già gli si è scatenato il panico con coronavirus, dice il Corriere di Bologna. Notizie che un alunno asiatico sarà presto accolto alla Carducci ed è già diventato terreno di guerra. Perché anche il Carducci è una scuola un po' bene di Bologna, quindi vuoi? No, è impossibile. Un genitore promette: tengo a casa mio figlio e faccio a casa la scuola, perché fa tornare un bambino cinese a scuola. Mi scusi genitore se mi sente, ma mi scappa da ridere. Il rappresentante di classe ha accesso agli atti, ma per capire i criteri di composizione delle classi, la preside, protocolli rispettati. Ma povero bimbo cinese. E non so se lo sai Alfredo, in Estremo Oriente esiste un unico paese dove non c'è stato neanche un contagio. Corea del Nord. Corea del Nord, bravo. E anche se c'è non lo dicono. E anche se c'è stanno zitti. Ce lo dice il giornale principale della Corea del Sud. È proprio la fotonotizia delle pagine della cronaca italiana di Repubblica. Ci fa vedere questa foto di uno stadio del ghiaccio dove tutto il pubblico è appunto in tribuna con le mascherine. E c'è una intervista al microbiologo Nino Rappuoli che ci parla delle ricerche per scoprire il vaccino. È una sfida globale, ma ci vorrà ancora più di un anno, ma ce la faremo. Sono ottimista, dice, perché questa volta c'è una cabina di regia che coordina gli sforzi e distribuisce i fondi ai laboratori impegnati nel mondo. C'è una serie di numeri. 2015 sono i nuovi casi, ieri per la prima volta in Cina i nuovi casi sono stati meno di quelli del giorno precedente. Beh, insomma, dai, notizia positiva. 97 i decessi e anche il numero dei morti è calato per la prima volta in 10 giorni. E mentre invece sono 174 i turisti ammalati a bordo della Diamond Princess, ferma sulle coste del Giappone. C'è una curiosità, la nuova definizione del virus è SARS-CoV-2, il virus ha un nuovo nome ufficiale, da ieri si chiama SARS-CoV-2, il comitato internazionale ha dato un nuovo nome al virus e infatti si tratta di un coronavirus parente della SARS. E invece martedì è stato, ricordo, assegnato il nome della malattia, si chiama COVID-19. Vengo al tema del lavoro con il Mattino di Napoli. Sappiamo quanto sia penalizzato il Sud su questo versante. Ecco il piano per il Sud, questa è l'apertura del Mattino. Il ministro Provenzano dice: domani la presentazione, si parte da scuola e ricerca, digitalizzazione, donne e infrastrutture, 100 miliardi tra nuove e vecchie risorse. Questa è l'apertura del Mattino, ma sappiamo le preoccupazioni che attraversano tutto il mondo anche dei trasporti, per esempio. E qui possiamo guardare per esempio il tema che riguarda l'Unione Sarda, che è molto preoccupata per la crisi di Aeritalia, che tra oltre a lasciare molti lavoratori a piedi, lascia a piedi anche i viaggiatori, vuoi andare in Sardegna. Aeritalia, tentativi di salvataggio, governo e regione in campo, Ryanair pensa ad un'offerta di acquisto. E allora Aga Khan e Qatar, dice così il Corriere della Sera, due partner diventati rivali, e la fine di Aeritalia dell'accordo del 2016 al duello sulla ricapitalizzazione della società. Poi passiamo all'Alitalia, anche qui il piatto piange come che piange. Crack l'Italia, bancarotta fraudolenta, soltanto per eventi e cene 600.000 euro. Certamente non è quello che risanava il bilancio dell'Italia, ma di fronte alla crisi dell'Italia questi sprechi fanno davvero accaponare la pelle. Indagate 21 persone, Montezemolo, Mostier, Colombo, Patuanelli, accertare responsabilità politiche. Ma Colombo e Patuanelli, dice il ministro, accertare le responsabilità politiche. Mentre su Montezemolo and Company interviene anche Marco Palombi dal Fatto Quotidiano. Montezemolo e compagni, salvatori che hanno affossato l'Italia. In 21 verso il processo, chiuse le indagini, falso in bilancio, bancarotta e ostacolo alla vigilanza. Tra gli indagati anche l'ex commissario Laghi e l'amministratore delegato di Unicredit Mustier. Ricordiamo che Unicredit in questo momento può licenziare non so quanti lavoratori, quindi per dire c'è tutto un girotondo. Tutti a tavola allora. Agli atti 600.000 euro di catering per i vertici. Sai quante tartine fai con 600.000 euro? Anche di pizzette, vai forte anche di Coca-Cola. 133.000 relè del genero di Gianni Letta. Quindi è come piccolo il mondo anche nel catering. Sull'Alitalia poi dice: meno male che arrivano quelli dall'estero. Al bazar di Fiumicino, così la compagnia fu spolpata dagli arabi, questa volta Daniele Martini, sempre dal Fatto Quotidiano, degli uomini di Abu Dhabi. Svenduti i pezzi pregiati, slot, mille miglia, eccetera, i veri padroni che poi hanno imposto accordi capestro sui voli. Sì, in tema di lavoro volevo citare le pagine delle novità tecnologiche del Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, partendo da un motto di Albert Einstein: l'istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola. Ci parla appunto dell'istruzione, la spesa in formazione post-universitaria, la popolazione con un'istruzione terziaria, l'educazione terziaria, cresce la domanda di formazione specializzata e continua. Il digitale moltiplica le modalità anche in Italia, il venture capital investe sulle scuole, l'istruzione professionale richiama i capitali privati. E riguardo agli aerei, anche le pagine della Stampa squarciano il velo sullo scandalo dell'Alitalia Etihad, e ci sono 21 indagati, fra cui c'è Enrico Laghi, Luca Montezemolo, Paolo Andrea Colombo e altri ancora, e si parla di parecchi soldi, 136 milioni di euro di false plusvalenze registrate secondo i magistrati nel bilancio del 2015. E sempre su Rair Italy, come ricordava Alfredo, la compagnia che cura i trasporti con la Sardegna, l'esecutivo è in mano ai commissari, bisogna garantire collegamenti aerei con la Sardegna almeno fino a dicembre, e Ryanair sembra che si stia facendo avanti. C'è un reportage di Nicola Pinna da Olbia che dice: il dramma della Sardegna è isolata, qui sempre meno navi e sempre meno aerei, in Costa Smeralda arrivano soltanto jet privati e VIP e magnati, gli assistenti di volo attaccano la Qatar Airways e stavolta non potrà stare a guardare, e solo ad agosto arriveranno le compagnie da tutta Europa. Veniamo allora alla cronaca italiana con il Manifesto, che in prima pagina già scrive: antisemitismo, il 70% di casi in più. Scritte anti-ebraiche davanti a due scuole di Pomezia, intervista a Stefano Gatti del CDEC. ma dopo Torino e Mondovì ora anche Pomezia. Mentre il capoluogo piemontese si prepara a rispondere lunedì prossimo all'odio anti-ebraica con una manifestazione di piazza, ieri nella cittadina laziale sono comparse scritte antisemite davanti a due scuole impegnate in un percorso di memoria storica, il liceo Pascal e l'istituto Borgo Brodolini, dove tra pochi giorni sarà ospite Gabriele Sonnino, testimone della Shoah. La reazione di sdegno però è stata compatta nella città e nel paese, prima tra tutti gli stessi studenti e gli insegnanti. Quindi si è capito, questi corpi così estranei che cercano di infilarci come un virus, non certo corona, ma svastica virus, nella convivenza del paese. L'antisemitismo cresce col complottismo, infatti. Questo è il commento di Leonora Martini in questa intervista che avevamo anticipato. Scritto antebraiche comparsa avanti alla scuola di Pomezia, parla il sociologo Stefano Gatti dell'osservatorio del CD del Kodak di Milano. Questi ultimi episodi, racconta, evocano un po' forme un po' vecchie, come quelle dei neonati degli anni 70. Negli ultimi 20 anni, invece, con i social, è tornato l'odio cospirazionista. Quindi è questa la base, è il cemento dei sospetti, quindi anche dell'odio. Ma allora c'è chi non ci sta a fare la fiacrata contro l'antisemitismo, perché Fausto Biloslo replica così dal giornale: nel giorno del ricordo 25 sfregi agli infoibati, la verità dell'odio che non indigna la sinistra. Questo è appunto, sarebbe la par condicio. Ma torniamo invece al tema dell'antisemitismo con il Corriere Bologna. Una fiacolata contro l'odio, grazie a chi l'ha disegnata, dice Emanuele Ederman, padre Emanuele ebreo polacco. Grazie a chi l'ha disegnato, io sono fiero di quella stella. Quindi Black is beautiful, Ebreo is beautiful. Mercoledì, passeggiata pacifica e senza bandiere. Una passeggiata dunque pacifica di cittadini di tutte le confessioni, di tutti i colori e nazionalità, forse anche di tutte le convinzioni politiche, per dire non semplice no all'odio e per chiedere una convivenza più civile, spiega il professor Henry Lederman, cittadino che il 30 gennaio ha scoperto accanto al suo campanello una stella di Davide con una freccia indicata e il suo cognome di origine ebraica. Sì, a proposito degli antisemitismo, citiamo il caso che riporta Repubblica, quello di Pomezia. Pomezia, svastiche e frasi antisemite prima dell'incontro col sopravvissuto della SOA, e subito scatta la catena umana di protesta. La ministra Azzolina dice: il fascismo non entrerà in classe. Ci sono le foto di queste scritte davanti al liceo Pascal di Pomezia, comune vicino a Roma, e dietro i cartelli di risposta agli studenti, e a sinistra sempre sulla stessa pagina ci sono altre frasi ingiuriose, antisemite. I precedenti sono a Milano, svastiche scritte naziste, Latina, due ragazze al liceo classico Alighieri, in ottobre 2019 imbrattano la scuola con svastiche scritte, e ancora. Ma riprendiamo le notizie di cronaca italiana dalle pagine della Stampa, e riparliamo della Casa delle Donne. Sala, il sindaco vuole soldi per l'affitto dei locali. Ricordiamo che nella Casa delle Donne, aperta nel 2013, la giunta Pisapia faceva pagare solo le spese. C'è una raccolta firme di pochi giorni su change.org per sostenere la battaglia. E ancora una cronaca arriva da Genova, c'è l'immagine dei lavori in corso per il ripristino del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, oggi sarà completata la metà dei 1100 metri previsti dal progetto di Renzo Piano, e una trave da 2000 tonnellate verrà appoggiata sui pilastri. Il ponte riappare su Genova, il viadotto forse sarà pronto per quest'estate. Vengo al Papa, perché la scelta del Papa, così racconta il Corriere della Sera, nessun cenno ai preti sposati in Amazzonia. Presentata l'esortazione apostolica ai media vaticani, ma non è una chiusura, anche se molti così la interpretano. Tornielli, è una questione discussa da tempo e ancora può esserlo ancora in futuro. Questo è quanto. Allora, c'è chi invece la vede come una chiusura, ed è l'intervista a Daniele Menotti che il Manifesto dà a questo teologo di stampo progressista. I tradizionalisti hanno ottenuto il loro scopo. Il Papa prende atto che in questo momento gli equilibri ecclesiali non consentono di realizzare i mutamenti che gli hanno chiesto i settori ecclesiali, su cui pure si mostra simpatetico. E questo è quello che racconta. Ma visto che magari spronati da una prima vittoria, la destra, anche sta alla destra di Papa Bergoglio, fomenta. Quindi leggo da Paolo Manzo del giornale: Papa Francesco abbraccia il pluricondannato Rosso Lula, visita ufficiale in Vaticano, però non si ricorda come l'hanno pluricondannato, con un golpe giudiziario smentito da tutti per non farlo partecipare alle elezioni, perché mente avrebbe vinto, per far vincere il Bolsonaro. Ma questo en passant, Paolo Manzo non lo dice. Dopo aver snobbato per mesi Salvini, allora incontra Lula e non vede Salvini, disco verde dell'ex presidente brasiliano, i critici, i destroni, a Roma per confessarsi, confermata l'assenza di richiami e l'ordinazione di sacerdoti sposati, però conferma anche il giornale con una certa soddisfazione. Poi vengo alla strage di Bologna. Strage, si cercano altri sospetti, le chiavi delle indagini, 5 milioni di dollari transitati da Licio Gelli ai gruppi neofascisti, che al tempo peraltro erano soldi parecchi, anche adesso, ma allora anche di più. La somma avrebbe finanziato l'attentato, indagini aperte per dare un nome agli altri presenti il 2 agosto nella piazza delle stazioni. E questa appunto la sentenza recente del tribunale ha aperto degli scenari. Ancora la cronaca, parliamo dell'Italia che invecchia, e invecchiando diventa intollerante. Succede anche a Palermo. La battaglia del pallone tra l'oratorio e i vicini. Palermo, il divieto dei giudici, il quartiere si schiera con i bimbi. Cosa succede? È diventata la partita più difficile di Palermo, racconta Felice Cavallaro. Una partita di calcio senza pallone in campo, perché i bambini dell'oratorio di via Parlatore gliel'hanno tolto in di mano per schiamazzi i giudici della seconda sezione civile del tribunale. Immagino che non giocassero di notte questi bambini. Comunque, per il momento, in attesa del parere tecnico del 28 febbraio, a 3 anni dall'inizio di questa singolare carriera giudiziaria, sarà affidato un ingegnere palermitano per decidere se piazzare pannelli fotoassorbenti, se regolare gli orari, se bloccare o liberalizzare tutto. Quindi anche giocare a pallone in oratorio diventa schiamazzo, diventa fuori legge. Da una parte, bambini e ragazzi ben più grandi, sacerdoti e volontari della parrocchia di Santa Teresa per Bambini Gesù, raggiunti per solidarietà dal sindaco, dal vescovo, per il presidente del Palermo Calcio. Dall'altra, 5 famiglie con i balconi su questo piazzale di via Parlatore, che è cinto dalle mura degli edifici che fanno da cassa acustica. 5 parti lesi in guerra contro il pallone, che arrivano come cannonate contro le feste e le partite organizzate anche a mezzanotte. Questo è quanto arriva dal Corriere della Sera a questa battaglia. Silenzio, si guarda la TV. Questo è il concetto. E torno invece sulla vicenda dell'olio e dell'antisemitismo, perché sulla vicenda della stella a Bologna, abbiamo raggiunto Henry Emanuel Lederman, docente che ha subito l'intimidazione. Sentiamo le sue parole. L'autore dei gesti di odio ha sbagliato 3 volte: la città, Bologna, il mio campanello e il liceo Copernico. Bologna, perché è nota nel mondo intero per il suo Ateneo, meta da secoli, studenti, studiosi stranieri di ogni provenienza, laici e credenti di ogni fede. Il mio campanello perché c'è una storia che inizia un po' come tutte le storie. C'era una volta uno scienziato ebreo polacco, prigioniero dei nazisti, fugge. Poi fatto prigioniero dai sovietici, fugge di nuovo. E mentre tutta la sua famiglia va incontro alla morte nel ghetto di Varsavia, raggiunge il generale Anders sul fiume Volga. Con l'armata del generale Anders si fa il giro del Mediterraneo, sbarca a Taranto, risale lo stivale e si trova in prima linea a Montecassino. Poi, per farla breve, con le truppe di liberazione giunge a San Lazzaro. E dopo la sanguinosa e mortifera battaglia che mette in fuga i tedeschi, sul carro armato entra in città da Porta Maggiore fino a Nettuno e libera Bologna. Quello scienziato polacco era mio padre. Infine il liceo perché intestato a Copernico, un polacco illustre anche lui. Allora eccola la mia risposta, che spero davvero non dover mai più ripetere. Autore del gesto, chiunque tu sia, se anche solo per un attimo hai pensato che disegnare una stella di Davide accanto al mio campanello fosse un'offesa, ti rispondo grazie. Grazie perché sono fiero di quel simbolo. E ti rispondo da sotto casa a Piazza del Nettuno, passeggiando con tutti i miei fratelli umani, agnostici ed ebrei, musulmani e cattolici, animisti e ortodossi, Hare Krishna, testimoni di Geova, sì che tanti altri, ognuno col suo credo, ognuno con le sue convinzioni politiche, chi più o meno colorato, chi più o meno pallido. A te, che hai impugnato il pennarello come fosse un'arma, la risposta è disarmante. Chiunque tu sia, una pacifica e silenziosa passeggiata con tanti nostri fratelli umani, fratelli miei, ma anche tuoi. Che cosa l'ha segnata di più di questa vicenda e che cosa invece le piace di più che sia sottolineato con questa fiaccolata? Quello che mi ha segnato di più e sicuramente aver vissuto tanta solidarietà, per cui il lato positivo di questa cosa, che da una cosa che si pensava dovesse far male, invece è nato e sta nascendo tanto bene. Questa fiaccolata la vedo proprio come il calore delle fiaccole che spegne l'odio e lo riduce a cenere. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Ultimo segmento di rassegna stampa sugli esteri, col manifesto andiamo in Medio Oriente, l'alleanza Erdogan-Putin, cioè Turchia-Russia, Serena Abdi di rottura vicina, gli islamisti pro-Turchia abbattono un jet siriano, Mosca, Ankara non ritira i terroristi, perché appunto Mosca patrocina anche il governo siriano di Assad e la Turchia di fatto con le sue milizie jihadiste sta attaccando anche questo residuo di Stato. Mentre sei famiglie libiche denunciano Haftar per crimini di guerra, andiamo in Libia. Scontri senza sosta, Tripoli misurata, l'ONU dibatte di tregua, ma la tregua ormai è veramente, quella sì, un fantasma. Sì, per quello che riguarda l'estero, le pagine della stampa ci presentano la fotonotizia di Beirut, la formazione del nuovo governo in Libano del premier Hassan Diab, appoggiato dagli Hezbollah filo-iraniani, che martedì ha ottenuto la fiducia con una maggioranza di 63 voti, non ha fermato le proteste e le violenze di piazza. Sarebbero almeno 280 i feriti negli scontri, come riporta la Croce Rossa libanese. A poco sembrano servite le parole di Diab pronunciate dopo aver ottenuto la fiducia. Lavoreremo, ha detto, per riconquistare la fiducia della popolazione e per mettere in atto una strategia a lungo termine che porti a riforme serie e che richiede la massima onestà e trasparenza verso il popolo. E invece andiamo dall'altra parte, nelle Filippine, a Manila, e c'è la svolta del presidente Duterte che dice: mettiamo fine al patto militare con gli Stati Uniti. Le Filippine hanno informato gli Stati Uniti che interromperanno lo storico patto di cooperazione militare tra i due paesi tra 6 mesi. L'accordo era entrato in vigore nel 99 e regola la copertura legale delle truppe USA per l'ingresso nelle Filippine per le esercitazioni militari congiunte e regola la presenza militare USA nelle basi del paese. Ancora altre notizie, direi New York, è uscita una lista nera da parte dell'ONU sulle aziende negli insediamenti dei territori della Cisgiordania e c'è subito la reazione di Israele. Ci sono anche Airbnb e Booking.com fra le 112 aziende israeliane e internazionali finite nella lista nera dell'ONU. Sono accusate di operare negli insediamenti israeliani in Cisgiordania e considerati quindi illegali. Erano 3 anni che era pronta questa lista negli Stati Uniti ed è stata comunque sempre ritardata fino a questo momento. Altre notizie dall'estero, c'è la missione Lampo di Di Maio in Libia che vede Serraj e Haftar. Ieri a Tripoli da Fayez al Serraj, oggi a Khalifa da Haftar a Bengasi, il ministro degli esteri Luigi Di Maio torna in Libia per provare a sbloccare il seguito della conferenza di Berlino del 19 gennaio. Il vero tema della visita che Di Maio affronterà a pieno oggi è il blocco dei prozzi petroliferi deciso da Haftar. Al generale il ministro chiederà con forza di sbloccare gli oleodotti dall'inizio di questa operazione da parte di Haftar. Ancora l'Argentina, una gaffe di Kirchner, presidente, gli italiani sono mafiosi geneticamente. Le polemiche in Argentina per le parole della vicepresidente Cristina Kirchner, che sabato alla Fiera del Libro a La Habana ha collegato i parenti dell'ex presidente Mauricio Macri all'andrangheta. In Argentina l'uso del sistema giudiziario per screditare un avversario politico ha avuto una componente mafiosa che deve essere probabilmente causata dagli internati di chi è stato presidente. E infine USA, USA con le primarie democratiche. E in New Hampshire, il ruggito di Bernie, Trump cadrà. Alle primarie la sorpresa Klobuchar. Naturalmente Sanders vince le primarie, ma i giornali pensano sempre agli altri, perché secondo la famosa opinione pubblica dei giornaloni Sanders non deve vincere, perché è la sinistra, non peraltro. Sanders vince New Hampshire col 25,7%, tornato da Buttigieg, crolla Biden. Ma c'è il momento di Amy Klobuchar, è la senatrice dura ma moderata che ha scalzato i Big Dem, ha raddoppiato i voti della Warren, e anche il Fatto Quotidiano spera che ci siano tutti meno che Bernie Sanders, la senatrice della porta accanto che proclama sono io l'anti-Trump. Nel frattempo si andrà a votare, prossime sfide sono in Nevada e South Carolina, e qui invece i sondaggi di Pan e Joe Biden, vedremo se è vero anche i tracolli. Nel frattempo però insomma la sinistra sta in testa ai primari Dem, e allora per chiudere prima di salutarci Bruce Springsteen in un vecchio Factory quando parla di lavoro. Walks out in the morning light. It's a work, a work, it's a working light. Through the mansions of fear, through the mansions of pain, see my daddy walking towards them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, but he understands he's a working, a working, just a working man. End of the day, factory whistle cries. Men walk through these gates with death in their eyes. And you just better believe, boy, somebody's gonna get hurt.